61esimo Festival di Cannes. Il cromo, l'amianto non l'ho creato io, Mondaglia non mi sono mangiato io. Funziona così. Dal romanzo di Roberto Saviano, Gomorra, un film di Matteo Garrone, dal 16 maggio al cinema. Sono le 23. GR24, il sole 24 ore. Tremonti, il tesoretto non esiste, ora sacrifici per banche e petrolieri. Libano, i militari riprendono il potere a Beirut. Pallanuoto, la Prorecco, campione d'Europa. Buonasera da Sergio Nava e dalla redazione. Il ministro dell'economia Giulio Tremonti annuncia misure penalizzanti per istituti di credito e aziende petrolifere. Pensiamo che qualche sacrificio debbano farlo anche le banche e i petrolieri. Le banche dovranno pagare qualcosa in più di tasse, se non faranno pagare qualcosa in meno alle famiglie per i mutui, ha detto Tremonti durante il programma In Mezz'ora, che sarà trasmesso domani. I petrolieri fanno più soldi perché sono aumentati i prezzi, non perché sono più bravi, ha aggiunto Tremonti prima di dichiarare. L'Italia dovrà affrontare una situazione difficile e non potrà contare su alcun tesoretto fiscale. Gli esteri, in una giornata di colpi di scena in Libano, giunto sull'orlo del baratro, ha fatto un passo indietro. Dopo 4 giorni di silenzio, il premier Fuad Signora ha pubblicamente sfidato il golpe di Hezbollah, sferzando l'esercito ad assumersi le proprie responsabilità. Le forze armate hanno reagito, rivendicando il controllo della sicurezza. Subito dopo, Hezbollah ha annunciato la consegna di Beirut Ovest, che è il settore sunnita, all'esercito, mentre i suoi miliziani sciiti hanno cominciato a ritirarsi dalle strade. Il tutto è avvenuto nell'arco di poco più di 3 ore. E la Casa Bianca si è detta molto preoccupata per le violenze in Sudan e ha rivolto un appello al governo di Khartoum e alle forze ribelli della provincia del Darfur affinché cessino le ostilità. Siamo molto preoccupati per la situazione, ha riferito il portavoce della Casa Bianca da Crawford, dove il presidente George Bush si trova per il matrimonio della figlia Jen. È andato tutto bene come avevamo previsto, gli allarmismi e le esagerazioni della vigilia si sono dimostrati infondati, ha commentato così il prefetto di Torino Paolo Padoin l'esito della manifestazione a favore della Palestina e contro la presenza di Israele alla Fiera del Libro. Lo sport, apriamo col ciclismo. L'americano Christian Van de Velde è il primo ciclista dell'edizione 2008 del Giro d'Italia a indossare la maglia rosa dopo che la sua squadra, la Slipstream, ha vinto oggi la prima tappa alla cronosquadra. Pallanuoto, la Prorecco si è confermata questa sera campione d'Europa battendo a Barcellona i croati dello Jugo Dubrovnik per 13-12 al termine dei tempi supplementari. Era questa l'ultima notizia, la prossima edizione di GR24 in onda a mezzanotte. La notte della passione. Ecco, abbiamo ripreso la notte della passione. Sono indisciplinati i nostri ascoltatori, sono tutti andati a fuori a fumare, che vi potesse accadere qualcosa di scabroso. State fuori, venite fuori. Allora chiudiamo con le porte, con un bel lucchetto, che fuori rimane fuori fino alla fine dei suoi giorni. Qua non c'entra più. I posti vanno a fumare durante la notte della passione, quando ci sono persone che ci ascoltano dal Texas, come Stefano. Stefano, buonanotte, buongiorno, non ho ben capito quale sia l'ora delle tue parole. Buongiorno, qua sono le 4 del pomeriggio. Sì. Ah, benissimo, un buon pomeriggio allora. Grazie. Tu stai a Green Hall, la più vecchia sala da musica del Texas. Esatto, sì, è in mezzo alla campagna qua, infatti anche il segnale è quello che è. E ho dovuto trovarmi il mio angolino per avere quelle due tacche per poter comunicare. E suonate il pomeriggio? Questa è passione, secondo me. No, suonate il pomeriggio lì? Sì, qua il sabato pomeriggio la gente esce e va a bersi due birre, a suonare e a sentire così, insomma. Ah, è musica country, la musica sì, quella che si vede nei film in cui... Ma c'è un po' di tutto, sì, in questo posto, qua in mezzo alla campagna, più che altro va il country, sì. E tu sei così, tranquillo, suoni le tastiere? Faccio un po'... Sì, io sono di ben diverse qua, faccio un po' di tutto, e oggi mi è capitata questa, e verrà beccato, insomma, così. Senti, anche tu come ci ascolti, solo per capire? Io dal computer, dal sito, mi scarico gli MP3, oppure a volte ascolto in diretta, insomma, dipende, ecco. Va bene, mi fa molto piacere. Ti lascio perché non vorrei interrompere il tuo concerto. Sono grato. No, anzi, guarda, qua siamo in pausa. Mi fa molto piacere prendere parte alla notte della passione. Ma tu quanto tempo rimani all'estero rispetto, diciamo, alle tue abitudini? Io sono qua da 7 anni. Per ah, cui... quindi ormai sei praticamente texano al 100%. E mantieni... Ma è difficile da dirsi a questo punto. Va bene, visto che vogliamo fare un mix Tex-Mex, resta in linea. Abbiamo da Novara Maria. Maria, buonasera. Buonasera Gianluca. Ecco Maria, tu sei messicana, che sì, sta a Novara. Sì, sono messicana, sì. Ecco, senti, abbiamo un tuo amico che sta in Texas, quindi messi insieme facciamo l'Hard Rock Caffè. Sì. Senti, tu invece cosa ci fa una messicana a Novara, mi domando? Tra le risaie, con un marito piemontese, cosa dovevo fare? Rimanere. Cioè, ti ha messo a fare la mondina? No, purtroppo non faccio la mondina, faccio l'operatrice call center, figurati. Vabbè, è un bel lavoro, piacevole. Dipende, mi piaceva di più fare la giornalista. Una volta facevo la giornalista in Messico, poi sono venuta qua. Ma tuo marito come? Lui e finita lì il giornalismo. Ecco, ma come ti ha raccattato in Messico? Cioè, dove ti ha trovato? Tanto per capire qual è il filo della passione che ti ha portato fino alle risaie. No, il filo della passione è un po' complesso, perché io sono venuta qua, sono arrivata a Firenze, ho conosciuto lui, che poi me l'ha presentato un'amica argentina incontrata a Firenze, lui è alessandrino, sono finita poi in Piemonte, qua a Novara. Sì, come nel film Riso Amaro con Anna Magnani. No, scusa, ho detto una boiata. No, non una è boiata. Tanto amaro. Sì, eh? Ho detto una boiata, sì, infatti. Sì, no, non è per niente tanto amaro, anzi. Dai che in Messico facciamo l'arroz con leche e dolce, quindi qua si fa l'arroz con leche, non ti preoccupare. L'arroz con leche sarebbe il riso con latte, che è un dolce. Riso con latte, sì, però dolce. Senti, a differenza di quel Piemonte che fanno tutto. Tu mi stai implorando da settimane, vedo i messaggi, la maglietta rossa della passione. Sì, io chiedo la camicetta, Gianluca, sì. Va bene, e se tu venivi questa sera, visto che Novara è abbastanza vicino, l'avresti avuta, però invece dovrei continuare a desiderarla e... No, prima o poi tu me la dai, la maglietta. Mi piace la specifica finale e quindi... sì, non è che poi tua moglie sta ascoltando, mio marito è qua accanto, quindi no, lasciamo stare. Vabbè, io vedo che, guarda, io capisco, sei messicana, esiste un meraviglioso pezzo di Octavio Paz, che è un ahimè defunto poeta e romanziere, proprio messicano, che parla proprio della passione della donna messicana, che è qualcosa che è profondamente dentro la donna messicana, ma la bravura dell'uomo è saperlo suscitare, saperlo tirare fuori. Va bene, ti saluto perché sennò... Gli italiani sono molto bravi a farlo. Sei molto brava a farlo, ecco, perfetto, sono molto contenta, ti saluto e parliamo con una... Finalmente qualcuno mi dà qualcosa che seppur lontanamente assomiglia alla passione. L'ascoltatore che è in viaggio a Liguria, un altano in movimento, Carlo da Ferrara. Buonasera Gianluca, sì. Buonasera. Dimmi, già sei lì, ti sto ascoltando. Sì, no, ci sto, sono qui, che stavo pensando che dal Texas, io sto transitando da Casalecchio in questo momento. Beh, ognuno fa quello che può. Dal Texas a Casalecchio potrebbe essere un libro di Kerouac, stavo pensando questo, no? Avevo questo pensiero. E cosa fai a Casalecchio? No, sto tornando dalla Liguria. Senti, la mia passione sono... libri, letture e così via, non è una passione straordinaria, sì, ma comunque, questo insomma... lo dicono tutti per nascondere le vere passioni. Leggo un buon libro, dimmi quelle vere, tanto a questo punto. No, questa è proprio quella vera. La mia passione è quella di andare a cercare i luoghi dei personaggi, degli scrittori, quindi di andare verso quei luoghi. A Casalecchio chi è che si è prodotto? No, prodotto... A Casalecchio al massimo Lucio Dalla posso trovare. E avevo una... Ho una grande passione per luoghi come Lisbona o posti di questo genere e allora volevo regalarvi una poesia di... No, la poesia no, mai. Dai. No, sì, la poesia dai, no. Perché no? No, perché la poesia no, ti prego. Cioè tu adesso vorresti recitare una poesia al telefono? Sì. Perché? In portoghese. No, il portoghese no. In italiano, dai. A memoria, dai. Beh, tu comincia, poi guarda, vedo il mio grado di resistenza, ti seguo appena non ce la faccio più ascoltare. È benissimo, è una poesia di Pessoa. Dai, forza. Ed è un modulo della poesia che dice, voglio, avrò. Se non qui, in un luogo che ancora non so. Beh, non è che ti porti un granché bene, niente, stai guidando. Niente ho perduto, tutto sarò. E ve la regalo, dai. Non ce l'hai il navigatore, no? Così eviti di perdere. Ce l'ho il navigatore, ce l'ho. Vabbè, l'abbiamo apprezzato, ci ha profondamente intriso di passione, ma per darvi veramente il segno della passione più potente che siamo riusciti a suscitare con questa nostra scellerata idea, vi facciamo sentire quello che da lungo tempo abbiamo promesso. Vi abbiamo detto che quella canzoncina di cui parlavamo prima, che ha fatto indignare mezza Italia e ha reso felice l'altra metà, sarebbe stata interpretata da un coro degli alpini che sta festeggiando la festa degli alpini a Bassano del Grappa. C'è stato qualche problemino all'inizio, naturalmente. I rudi alpini, pronti e temprati ad ogni battaglia, ad ogni spezzone di cannone, ad ogni mitraglia, pronti a spingere il loro mulo sulle alte vette, di fronte alla terrificante forza dell'oggetto innominabile della passione, hanno avuto un moto di pudore. Ma lo capiamo, sono rudi soldati, abbiamo dato loro il tempo di acclimatarsi, di abituarsi e soprattutto di entrare nello spirito della festa degli alpini di Bassano del Grappa, e questo è il risultato. Da Bassano del Grappa, con tutta la passione per la notte e la passione, ma soprattutto la nostra passione è per le nostre groupies. Sono stata una giovane piacente e poi femmina stupe coraggiosa, ho giocato col cuore della gente prima di diventare madre e sposa. Sono stata donna prima che regina, reggente dell'impero e imperatrice. La vedo vibrare dalla passione per il canto degli alpini, bionda signora Grupi con la maglietta alla passione. Mi aspettavo un po' di meglio dagli alpini. Si aspettava un po' di meglio? È stata una delusione? È un filino, sì. Perché? Cosa si aspettava? Non so, qualche cosa di più, diciamo, melodioso. Non l'ho trovato particolarmente melodioso. Ecco, io vorrei a questo punto un giudizio sereno fra le persone che stanno qua sul canto della passione degli alpini. Hanno fatto, poverini, un grande sforzo. Lei ride che accanto a questa signora, voglio vedere se anche lei riesce. No, rido perché io sono un alpino. Ah, lei è un alpino? Sì. E come mai non sta a Bassano del Grappa? Non sto a Bassano del Grappa perché dovevo scegliere, o a Bassano o qua, e ho scelto di stare qua. Cosa le faranno quando capiranno che lei ha fatto questa grave defezione? Non lo so, probabilmente mi costringeranno a venire al prossimo raduno e, e a cantare questa canzone. Ecco, vediamo un po', visto che lei è alpino, visto che ci dà una grande occasione. Noi abbiamo sempre considerato la figura del soldato, la figura del guerriero come una figura fortemente appetibile dal punto di vista della passione. Ma per l'alpino è molto particolare la cosa. Io ho fatto la naia e ho subito anche il nonnismo degli alpini, perché nel car si sta tutti assieme. E quando venivate voi, per noi era la fine, perché gli alpini erano naturalmente quelli che volevano comandare, volevano infliggere sugli altri la forza del loro spirito di gruppo. Giusto così, insomma. Sì, è giusto così, però se poi il risultato è questo, alla fine noi gracili radiotelegrafisti che alla fine siamo stati nell'armadietto, abbiamo scantato il jukebox, m'hanno messo il dentifricio in testa, l'attacca tutto sotto i piedi, dentro le scarpe, hanno fatto di tutto, però come vede, in fondo il risulta quello che conta, poi il risultato finale. Ecco, questa idea dell'alpino ancora rude, ancora così legato a questo spirito di corpo, trova che abbia ancora un senso, perché poi vede che oggi leggo la delusione, e addirittura lì c'è la signora che si è abbioccata. Aspetti, fermi un attimo, no, l'ho colta in pieno abbiocco. Lei si è abbioccata, sta dormendo. No. Lei sta dormendo. No, non sta. Lei sta abbioccata. No, perché? Ma perché? No, lei sta dormendo. No. No, lei è marito? No, sono il papà. No. È il papà? Sì. Ecco, vede, forse confermo che non stava dormendo. E perché stava con gli occhi chiusi e abbassati? Pensava ad altro, non lo so. Adesso ci dice, visto che mancano un minuto al traffico, in questo minuto, qual è il pensiero che la teneva così lontana la nostra notte della passione? Ah, lo dica sinceramente, tranquillamente, non ascolta nessuno. No, non stavo pensando niente in particolare, alla naia, al vostro... Lei da dove viene? Qua vicino, verso Lodi. Ecco, è venuta qua, si è fatta accompagnare dal padre, che ovviamente non la mandava sola. Cosa? Non la mandava. Perché l'ha accompagnata suo padre? Perché è un melogman, è convinto. Ah, quindi, no, mi piace questo. Siamo questo... tossicodipendenti della stessa droga. Questo poi è l'effetto che fa il momento down, quindi ve ne siete fatta troppo. Vabbè, diamo le informazioni del traffico, ci stanno aspettando, e poi continueremo con questa notte la passione che mi sembra quanto mai moscetta, soprattutto per questa signora che l'ho vista veramente abbioccata. Tra un istante. Che strada fa? L'unica notizia di code riguarda la 4 Milano-Brescia, dove c'è un cantiere da Ospitaletto fino a Brescia Ovest. Sono queste code anche perché è chiuso il tratto della 21 prossimo, quello compreso tra Manerbio e Brescia Centro in entrambe le direzioni. Chiusura notturna, il tratto sarà riaperto domani intorno alle 6. Ricordiamo che a Torino prosegue il Salone del Libro fino al 12 maggio. La manifestazione determina la chiusura di alcune vie intorno a Vienizza, dove l'entrata principale del Lingotto, e poi chiuso anche il sottopasso La Spezia, proprio per regolare il flusso di visitatori. Potenziato anche il trasporto pubblico fino al termine dell'evento, una linea speciale collegherà la stazione di Torino Porta Nuova al quartiere Fiera. Noi ci sentiamo per l'ultima edizione di oggi tra mezz'ora. Nessun dorma. La notte della passione. Adesso vediamo se riusciamo a alleggerire le palpebre alle signorine che sono davanti a me, che giustamente si aspettavano dagli alpini, quindi mi tolgo ogni responsabilità, qualcosa che le facesse fremere, fibrillare e vibrare lievemente di più. Adesso ci colleghiamo con un'altra altana della passione che si trova in un luogo che non saprei definire se sul territorio nazionale o su un territorio intermedio, un territorio che non appartiene al mondo concreto. Qualcosa di cui parlai lungamente l'anno scorso attirandomi strali e ammirazione. È un luogo collocato sempre in quella macchina che molti usano per lavorare e altri usano un po' per sognare. Voi umani mi fate ribrezzo. Siete la somma di ogni meschinità e vigliaccheria, e vi puzza anche il fiato. Io sono solo un'immagine nello schermo del vostro computer. Voi mi fate muovere agitando la mano destra su un mouse o picchiando forte sulla tastiera. Tristi umani picchiatasti, voi che ti nascosto giocate con me o con quelli come me, non lo sapete. Questo è l'inno dell'avatar. L'avatar è l'essere immateriale che rappresenta l'essere umano con cui molti giocano. C'è una fetta, anche se piccola ma abbastanza consistente, di umanità, consistente per la complessità del gioco, che sta facendo quello che il pubblico in studio sta guardando nel monitor, se riusciamo a farglielo vedere, sta provando se stesso in un luogo immateriale che è Second Life. Second Life oggi è qualcosa di cui non è che si parli molto volentieri, perché è un po' uscito da una moda giornalistica che ne ha molto parlato un anno fa. Ma comunque ci sono un numero consistente di persone in questo momento ci stanno ascoltando dal luogo di Second Life. Immaginate, saranno una cinquantina di avatar. Dietro ognuna delle figure che si vede nel monitor in questo momento, dal Post Human Lab, un laboratorio post-umano, dove delle persone bellissime, donne vestite con lussuosi abiti da sera, uomini con la maglietta rossa, ci stanno ascoltando e forse ci vogliono parlare. Che si vede nel monitor in questo momento, dal ecco, questo è esattamente quello che stanno sentendo in Second Life, cioè la mia voce ritornata, la mia voce raddoppiata con un po' di ritardo. Se magari da Second Life evitano di sentire la trasmissione, mi fanno sentire qualcuna delle loro voci, alla radio forse viene anche un po' meglio. C'è qualcuno da Second Life che può parlarci? Sì, Gianluca, mi senti? Sì, ti sento. Ecco, chi sei? Vediamo se riusciamo allora, anche a farti vedere. Io sono Carlos, diciamo, abbiamo, come stavi dicendo tu, ci troviamo in un luogo che è appunto Second Life, dove tutte le persone sono collegate da casa e questa è un'altana virtuale, in cui abbiamo coinvolto moltissimi melogmani appassionati e rintracciati per via telematica. Perché questa, diciamo, che è la notte di Radio 24. Di Radio 24. Incidentalmente, sì. Io faccio Melog la mattina, che è uno dei programmi di questa radio, ma questa è una notte che abbraccia, diciamo, l'idea di una radio attraverso cui circola, e cerchiamo il più possibile di sforzarci per far circolare il senso della passione. La passione è anche lo sforzo di far qualcosa che gli altri non fanno, di non raccontare semplicemente, superficialmente quello che si vede, ma di farlo mettendoci un po' noi stessi. Ecco, voi incorporei quanti siete in questo momento? Io voglio far parlare in questo momento siamo una cinquantina, come stavi dicendo, appunto, che abbiamo saturato completamente la land, non riesce più a entrare nessuno da quanti siamo. Ti stavo dicendo, noi abbiamo messo un appello su Facebook, abbiamo invitato chi volesse partecipare alla nostra altana virtuale di raggiungerci qua collegandosi su Second Life, e questo nostro invito è stato raccolto da tantissime persone. Infatti stasera siamo tantissimi, stiamo tutti quanti interagendo, stiamo anche commentando in tempo reale. C'è qualcun altro che può parlare oltre te o sei l'unico che sta intrigando? Purtroppo è un po' difficile, posso provare ad aprire il voice adesso su Second Life, sì, chiedere a qualcuno se vuol parlare in voice e io provo a rimandarlo facendo un pochino di ponte con la, sì, con quello che sento però in questo momento è semplicemente la tua voce riverberata. No, in questo momento c'è un po' di problema, Carso. Io voglio dire, se qualcuno che sta qui, delle persone in carne ed ossa, ha qualche domanda da fare. Queste sono persone che, per un gioco, per una loro attitudine, per un loro desiderio di nascondersi o di rivelarsi attraverso, vedete, quelle figure lì che ognuno costruisce, passano parte notevole del loro tempo a incontrarsi in questo luogo. C'è qualcuno che ha curiosità? Ecco, prego, avanti. Ho visto una maglietta rossa. Chi parla? Chi è lei? Sono Francesca. Francesca, da dove viene, Francesca? Da Saronno. Viene da Saronno. Ecco, Francesca, che lei qui in carne ed ossa e condivide con gli altri una presenza fisica. Si comincia anche a sentire il fatto che c'è qualche centinaio di persone in questa stanza. Si comincia a sentire l'odore di umanità, ma fa parte del fatto che noi abbiamo un corpo. Ecco, vede, le persone che stanno qua, sembra che in un certo senso abbiano superato la necessità di sentire dei loro esseri, dei loro simili vicini anche attraverso queste sensazioni corporee e si sono riprogettate. Quelli sono esseri umani, li vede, hanno la maglietta rossa. Infatti, volevo sapere loro come hanno fatto ad avere la maglietta rossa. Carlos, vorrebbero sapere come fate ad avere anche voi la maglietta rossa dentro Second Life. La maglietta rossa, questa è stata, l'ho costruita io tempo fa, infatti la sto regalando a tutti gli avatar che vengono a trovarci qui al Post Human Lab. Diciamo, è un po' un omaggio alla passione avatarica, diciamo così. Ecco, c'è qualcun altro che ha delle domande più specifiche da fare proprio su quello che è la possibilità di avere una passione quando non esiste il corpo? Per lei è una possibilità, è possibile avere la passione senza corpo? Penso sì. Sì, lei non riesce nemmeno a tirar fuori una parola, si figuri quanto poi riesce a legare il corpo alla passione. Beh, si vinca questa sua timidezza. È difficile. Perché è difficile? Qual è il problema? Non si maceri con questa mano la gonna. Dice che è difficile. Sì, è un po' difficile. E beh, forzandosi però naturalmente è più facile poi emerga la passione, no? Non la voglio mettere in imbarazzo, ma vorrei capire perché lei normalmente parla con la persona che gli sta vicino. Normalmente sì. No, perché non riesce a parlare con me in questo momento? La imbarazza il fatto che sentono molte persone? Sicuramente sì. E perché? Dio mio, sto creando un problema esistenziale a questa signora. Allora passo alla signora che mi sta dietro. Che... No, lei perché? Ah, la mistica Capa Lucia, fermi, tieni qua, è stato un caso. Allora adesso, scusa, è inutile che lei passi la sua sottoposta al microfono. Altra storia, se poi il tecnico Paolo Corleo di Bida i Tempi, facendomi il segno con le dita, visto che sono lontano, in questo momento, 5 minuti, bene, per la Capa Lucia sono più che sufficienti. Capa Lucia è un esempio di donna manager che ha articolato, no è inutile, non me lo passare al tuo schiavo, te la devi parlare te. La Capa Lucia è un'importantissima capa di un'importantissima azienda che non posso dire naturalmente, che non voglio fare, però diciamo di altissimo livello. Ha un potere, gestisce il personale naturalmente, ricattandolo qualche mese fa e costringendo le sue sottoposte, che poi sono i suoi primi riporti, quindi sono dei dirigenti, non sto parlando di pizza e fichi, a fare delle continue reiterate richieste alla nostra radio perché lei voleva la maglietta della passione. Lo hanno fatto, hanno pregato, hanno implorato, ha coinvolto anche le vostre filiali all'estero, vero? E apra bocca, come fa a essere capo se non parla? Ma questa attendiamolo subito. È timida, io te l'avevo scritto che era timida. Lei è il primo riporto. Tu mi hai scritto che te la passavi al Ma può essere, timido un capo? Guarda, porta ancora capo. La maglietta che gli ho firmato capo. Addosso alla capa Lucia, venuta da sola, per sola passione. Non è venuta. La Capa Lucia un mese fa, mi sembra, qualche settimana fa, venne in un luogo dove stavo io casualmente e si fece firmare la maglietta della passione. È sempre supportata dai suoi primi riporti che hanno anche il compito di fargli la portavoce. Eh sì, oramai siamo supporter in tutto. Io una volta mi è capitato di ricevere il messaggio di un altro ascoltatore che in un ascensore ha intercettato la Capa Lucia, un suo collega. No, smetta il microfono davanti almeno. La Gem Blacklist. Cioè è stato silurato, sì. Era un suo dipendente? No. Non cos'era? Un partner? È un fornitore. Un fornitore? Sì. E quindi l'ha segato? Sì. Beh, giustamente, mi sembra giusto, sembra una maniera perfetta per gestire i rapporti. Io molto velocemente, ho due microfoni, è molto bello, mi avvio per vedere se nel monitor mi segnalano qualche telefonata, così possiamo anche far intervenire altre persone. Ecco, c'è un ascoltatore in auto e sta andando vicino Viareggio in una strada della passione. Questa la voglio sapere. Luca da Lucca? Eccomi. Cosa vuol dire una strada della passione? La strada della passione, Nicoletti, la strada della passione è una strada piena di donne. Beh, quella che la chiama passione. Offrono la loro passione. Vabbè, è la strada delle schiave, hanno... scusi, lei è schifoso se dice questo. Certo. Ecco, allora basta ammetterlo, mica dico... Cabrose, io sono venuto apposta per voi nella strada della passione. Beh, allora lei la chiama passione, quello che vede davanti. No, perché magari ognuno ha il suo punto di vista. Voi avete parlato di pasta. Sì, ma queste donne stanno lì perché qualcuno ce le mette, taglia loro la gola se minimamente si allontanano da quella strada. Non è che voglio fare il paladino, si figuri. Ma no, esiste una percentuale di puttanieri simpaticissimi, ma non mi sembra che questo sia uno degli esempi più calzanti. No, è uno degli esempi più edificanti di passione, ma voglio dire sicuramente meglio della pasta. Lei si trova lì naturalmente semplicemente per fare una testimonianza per la nostra radio, mai sarebbe transitato. Sono venuto qui apposta, io non sono un abituale frequentatore, insomma. Ma certo, poi ma nessuno... sono venuto qui per la notte della passione, mi hanno chiesto sobrietà, adesso non è che posso andare a chiedere quanto vogliono per una prestazione. No, ma non è che ci interessano le tariffe. Ma infatti se ne frega nulla. Sulla strada della passione. No, però mi interessa questo punto, visto se lì fa il nostro osservatore. Osservatore neutrale, naturalmente. Assolutamente. Non le chiediamo, i suoi usi e i suoi costumi. Ecco, cosa vede in questo momento? Visto che, non so se lei concorda con me, può essere anche non d'accordo. Io trovo che questa sia l'antitesi più esasperata di quello che noi cerchiamo di intendere per passione. Non siamo dei moralisti, figuriamoci. Il libero commercio carnale tra esseri umani, adulti e consenzienti, troviamo che sia uno degli esercizi più salutari per mantenersi in vita felicemente. E per non appesantire il nostro prossimo con le nostre depressioni. Ma non mi pare sia esattamente quello che accade in questa strada, o no? No, in questa strada c'è una semplice mercificazione, ma più che altro c'è traffico, Nicoletti, c'è un traffico infernale. Cioè il sabato sera una percentuale elevata di rispettabili padri di famiglia dice vado a prendere le sigarette e così funziona. Vado a bere una birra e si mettono qui in coda con allora, senta, descrivere... signorine, qui ce n'è per tutti i gusti. Ecco, a me descrivere comunque quelle povere ragazze che stanno lì, ragazzi, donne, uomini, non mi interessa la loro origine biologica, il loro genere. Mi descrive un po' i clienti, perché quelli che vorrei sapere io. Lei li vedrà, li vede, tipo di macchina, tipologia. Questo qui è sicuramente un banchiere con i baffi, ben vestito. Lo stavi guardando in questo momento? Sì, lo sto guardando, infatti mi sta guardando. Senza dire la targa, che macchina è? Diciamo, non dica la marca, ma mediamente... È una macchina di grossa cilindrata. Su quanto viaggiamo? Questo è facoltoso. Diamo una cifra. 40.000 euro. Sì, ma c'è anche una 500, una macchina, piccole macchine, insomma, utilitari qui... E stanno negoziando diciamo la loro botta di vita. Assolutamente, guarda, qui ce ne sono quattro insieme, cioè non so che cosa vogliono fare, non ho idea. E chiederanno uno sconto comitive. Comitiva, così, probabilmente. Sì. Penso così. Questo qui probabilmente non ha neanche l'età della patente. Gli altri lo portano, è una prova di iniziazione. Solo che una volta si faceva in luoghi, non voglio dire... No, si iniziava da solo. Fa a guidare la macchina se minorenne? Non lo so, ma diciamo non dimostra neanche i 18. C'è ecco. Uno sbarbatello. Esatto. Quindi, mediamente, che densità umana c'è? Quanti uomini vede in questo momento? In questo momento qui ci sono almeno 30 macchine che vanno e vengono e fanno questa vasca di 2 chilometri a Torre del Lago, non so, i locali conosceranno benissimo il luogo e credo anche... Questo è un suo compaesano, viene da Roma, ad esempio, addirittura da Roma. Questo è arrivato a Roma, Torre del Lago, per venire qui a mercificare la sua passione. Roba da, da Roma si va fino a Lucca. Che devo dirle? Continuo a osservare. Io osservo per lei, io le volevo passare in diretta una di queste focose donne, ma... Allora, aspetti un attimo. Mi tagliano la gola. Allora, resti un attimo. Lei faccia un tentativo, senza naturalmente rischiare. Guardi, non ho una gran passione, non è che ci muoio per sentirla, perché... non mi piace fare questo tipo di antropologia. Preferisco allora, che lei sia lì e osservi, magari la richiamo e mi dice cosa sta accadendo. Soprattutto i tempi della passione mi interessa, quanto dura questo intrattenimento. Io do la linea alle informazioni sul traffico, visto che di traffico stiamo parlando in questo momento. Ci sentiamo tra un minuto. Assicurazioni Aviva. Con il sole o col maltempo da 300 anni prevede per voi un futuro più sereno. Vi presenta. Che tempo fa? Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Una perturbazione di origine nordafricana quest'oggi si è avvicinata alle isole maggiori, ha portato piogge soprattutto in Sardegna ma anche in Sicilia. Questa perturbazione domani investirà in maniera più decisa la Sardegna, dove il tempo sarà perturbato, avremo piogge diffusi localmente anche di forte intensità. Le nuvole però si estenderanno anche alla Sicilia e alla Calabria, nel corso della giornata anche al resto del sud, con qualche rovescio sulla Sicilia e nelle zone interne tra Lucania e Puglia. Altrove avremo bel tempo, ma con lo sviluppo di rovesci pomeridiani su Alpi e Prealpi centro-occidentali e Appennino centrale, in scivolamento verso sera sulla pianura piemontese, intorno ai laghi lombardi, nell'entroterra ligure e nelle zone pianeggianti tra Toscana e Lazio. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in lieve flessione al sud e sulla Sardegna, ma ovunque molto miti. Le massime domani caleranno un po' in tutta Italia di un paio di gradi, resteranno comprese per lo più tra i 18 e i 24 gradi. Con questo per il meteo è tutto, ancora una buona serata agli ascoltatori. Nessun dorma. La notte della passione. Ci siamo lasciati con un ascoltatore che ha fatto testimonianza personale, poi non voglio star qui, non è che sto, che è la mia missione fare il morigeratore o il raccoglitore di istanze passionali deviate nel pubblico che ci ascolta. Però fare una riflessione sull'Italia puttaniera che in questo momento va lungo le strade, visto che è composta di persone omogenee, anche a noi che stiamo qui, non è che sono che sono alieni o sono marziani, forse varrebbe la pena. Mi piacerebbe se qualcuno volontariamente, non è che vi voglio incitare, e poi se nessuno alza la manina sarò io a venirvi a scovare. Poi faccio come prima, che ho messo in crisi una signorina che aveva qualche problema, non gli andava di parlare semplicemente. Che impressione vi ha fatto pensare, visto che è una cosa che ormai lo fanno vedere la televisione, un documentario, c'è una trattatistica ormai inesauribile sul discorso strappalacrime, sul documentario, sulla triste vicenda di cronaca, però sentirlo in diretta alla radio con una persona che sta lì che ci racconta forse fa un certo effetto. Quante di voi possono avere un attimo e mi rivolgo naturalmente alle gentili ascoltatrici, un barlume di sospetto che mentre loro stanno qui qualcuno a loro caro stia passando su una strada del genere? Lei non è mai venuto questo sospetto? Sì. Ha avuto coraggio a dirlo, perché, sì, perché sembra che caschiamo tutti sempre dalle nuvole. Se le strade d'Italia sono piene di puttane, piene di uomini che ci vanno, evidentemente l'offerta c'è perché c'è molta domanda. Ecco, cosa spinge secondo lei l'uomo medio italiano a questo tipo di ricerca? Che fra le tante maniere comunque di procurarsi amore mercenario, non voglio dire che sia un'attività che necessariamente voglio condannare, ma questo è un caso molto particolare. Si sa che le ragazze che stanno sulle strade fanno parte di un racket terrificante e schifoso, fatto di schiavismo, fatto di violenza, fatto di morte, fatto di sfruttamento. Una cosa ben diversa, non è una scelta personale, non si va al salone di massaggi dove c'è la professionista che ha scelto di fare quel tipo di lavoro, magari sarebbe anche bene che paghi le tasse. Ecco, cosa le fa pensare che esistano persone qualificate come normali e molte volte anche rispettate che fanno questo? Forse il senso di trasgressione, oppure la voglia di sentirsi potenti, di pagare per avere una prestazione. Sono uomini che magari non hanno un lavoro che li soddisfa, che sono a loro volta manovrati. Quindi è colpa della società? Non in generale, però. La signora che sta a fianco, che vorrei fotografarla perché è l'esempio della passione come me la immagino io nei miei sogni più detestabili. La signora con la maglietta rossa, con i capelli rossi, sorridente, con gli occhiali, che amo molto le donne con gli occhiali. Ecco, rispetto alla domanda che ho fatto prima. Intanto la passione per me è proprio i capelli rossi. Mi invita a nozze quello che ho detto. Capelli rossi e profumo di fragola. Che non ho avuto rosso modo di sentire. che si può immaginare. No, no, figurami, immagino tutto, ma... Ecco, però risponde alla domanda, non svicoli. Stiamo parlando di una cosa che per un attimo ci toglierà dalla lietezza la passione, però volevo, visto che è stato toccato l'argomento, trattarlo con lei. È il pagare. Tenga vicino. Pagare. Ecco, allora la passione ha prezzo. Noi, c'è uno spot di questa radio che dice la passione non ha prezzo, ma la maglietta La Passione si può trovare nel sito di Radio 24. Noi stessi siamo i primi a dire che la passione non abbia prezzo, ma esiste un prezzo della passione? Esiste una maniera per in fondo anteporre a quella che è la passione, che richiede anche molto sforzo, molta fatica? Conquistare la passione di un'altra persona significa innanzitutto provare passione, che è qualcosa di molto difficile. Pagarla probabilmente è un surrogato di passione molto più facile da ottenere, che probabilmente potrebbe dare l'illusione che quella che si acquista e si compra è passione, ma come dice l'ascoltatrice, probabilmente è semplicemente il senso di poter pagare qualcosa che altrimenti non si è capaci a ottenere con le proprie facoltà umane, la propria possibilità di relazionarsi. Ah, abbiamo in onda l'Altana della Passione di Bologna, che mi sembra uno dei luoghi più indicati per approfondire questo delicato tema. Che abbiamo da Bologna? Sono Marzia. Ah, Marzia, Marzia, Altana della Passione di Bologna. Esatto. Ecco, cosa fate, quanti siete e soprattutto voi a Bologna, che è una città che almeno per una volta passava come una robusta città di buon gusto in tutti i sensi, rispetto al collegamento di Lucca, avete dei commenti da fare? Dunque, qui la passione si sente nel senso che abbiamo mangiato il salame rosa. Vabbè, avete mangiato anche voi, il salame rosa? Però, ma cos'è? Il salame rosa cos'è? Una battuta locale? Cosa significa? Non posso immaginare. No, non... molto passionale. Ah, No, comunque, sarebbe la mortadella, sarebbe. Una cosa simile, però, però è più verso il salame. Vabbè, ho capito. Dalle risate di sottofondo capisco che sì, il livello di passione voi sta aumentando. Ma anche senti... Anche... si sentono. Sì, so da Bologna mi avete fatto una promessa che anche voi sareste riusciti a interpretare la mistica canzone. E ci siete esatto, riusciti? Sì, l'abbiamo fatta. Ecco, vediamo di sentirla. Tu sei la donna prima che regina, caporiana, per imperatrice, gnoccoli, la forza della bastiana. Ecco, come avete tradotto il termine innominabile, per capire, perché non ho sentito bene. Baffiona. Baffiona. Vorrei dire baffona. Ecco, questo reperto lessicale, come l'avete, perché non l'ho mai sentito. Abbiamo consultato il fantastico dizionario bolognese italiano e comunque sembra, insomma, è un termine usato soprattutto... Cioè in famiglia la chiamate così? Esatto. No, no. Ma io non trovo niente da ridere, trovo che sia un'operazione degna del professor De Mauro, quindi non vedo perché vi faccia ridere. No, non fa ridere. No, può anche far ridere, ma non fa sghignazzare. Vabbè, vedo che gente allegra, Dio l'aiuta. Saluto Bologna e vedo che dal monitor che mi segnalano che lo spazzino si è preso la maglietta. Berengario è in linea? Sono in linea, Nicoletti. Ma lei ha fatto tutto più veloce della luce. Io speravo che venisse qua, la salutavo, la presentavo al pubblico. Qua bisogna sempre fare più veloce della luce. Sì. Perché lei ha già la maglietta addosso. Ho la maglietta addosso. Il mio collega conferma. Mi passi il collega. C'è finito. Sì, no, è più a voce. Dimmi. La senti, collega, come si chiama lei? Io mi chiamo Nicola. Nicola, Berengario, veramente indosso la maglietta? E certo che la indosso, scusa. E sta spazzando, in che zona siete di Milano? Adesso siamo qua in via Ludovico il Moro. Però siamo dalle parti di Vercelli. Ma qual è la divisa dello spazzino milanese? Mi scusi, io non sono... Qual è la divisa classica? Sì, certo. La divisa è gialla con i pantaloni verdi. Quindi il suo amico praticamente ha pantaloni verdi e la maglietta rossa? Lui ha la maglietta grigia con la scritta rossa. Ah già, la maglietta da uomo è grigia, scusate. Sì, io avevo detto di mettervi quella rossa. alla maglietta di Foggia maschile che è grigia con la scritta rossa. Quindi tranquillamente sta lì con scritto la Passione di Sente e spazza le strade milanesi. Lui ha questa maglietta qui e va in giro con questa maglietta qua. Che devo dirvi? In bocca al lupo. Grazie Nicoletti, ciao. Volevo dirti anche che mi hai fatto felice. Per così poco? Per così poco dipende dai punti di vista sempre. Senta, mi dice qual è il punto di vista di uno spazzino il sabato notte in cui i milanesi, ormai reduci da un paio d'ore dall'happy hour, si avviano verso le mirabolanti follie della notte. Lei vede questi signore che vanno a divertirsi mentre lei... Appunto. Però la mia felicità sta nel fatto di aver ricevuto questa maglietta e fare una bella sorpresa domani a mia moglie. Beh, gliela faccia stasera la sorpresa, scusi. No, non posso, stasera sono in mezzanotte. E che ora finisce? Alle 5:30. Quindi lei torna a casa verso le 6 e fa la sorpresa a sua moglie? Beh, questa è la speranza. Vabbè, le faccio i miei migliori auguri, guardi, veramente, di cuore. E io la ringrazio, Nicoletti. Se non ci si aiuta tra noi. È una trasmissione bellissima che seguo tutte le notti. Ah, già, la sente indifferita lei in streaming? Sì, la sento indifferita alle 12:30. Ah, sente alla radio indifferita alle 12:30. Vabbè, noi la facciamo un 12 ore prima, però ci fa piacere comunque che il senso, l'onda lunga della passione si mantenga giorno e notte. Arriva anche di notte. Va bene, salute Berengari, non si allarghi troppo adesso, tenga le forze per domani mattina. E invece abbiamo anche, che insiste, l'ascoltatrice Livia che è arrivata a Roma. No, non mi faccia sentire il fratellino, la prego. Ma sì, no. No, è terrificante. Guardi, sono le 11:30, non può tenere un bambino sveglio. No, io sono arrivata qua e l'ho trovato sveglio perché era felice che io pensavo che dormisse, sono tornata a casa e lui era sveglio. No, la voce del bambino, la prego, mi risparmi. Solo... No, ma guardi... il bambino cavia, ce l'hai rifilato per tanti anni. Ma quello era mio figlio, potevo per me, poi era una cavia. Vabbè, dai, faccia sentire il fratellino. Fratellino, buonasera, bambino. Ci sei? Ah. Ciao bello, va a dormire, va che è meglio, buonanotte. Io non ho sonno. Non c'hai sonno? Beh, va a dormire. Ha già rovinato la giornata tua sorella adesso. Niente, si vergogna, prima facevo lo spavaldo, niente. Sì, però sta notando in questo momento che tutta questa costruzione fantasmatica che moriva dalla voglia di vedere la sorella, in realtà lei poteva benissimo stare con noi, lui avrebbe tranquillamente dormito, come è giusto che sia per un bambino a quest'ora invece che stare sveglio. No, lo so, però poi domani non facevo in tempo. Comunque è vero, prima era contento, adesso si è imbarazzato perché ha sentito, a parte che ho dovuto censurare tutto questo discorso sulle strade, delle donne per strada. Beh, scusi, no, ma guardi, non è che gli ha ordinato il medico di far stare alzato un bambino, noi speriamo almeno. Ma no, lui era alzato perché io tornavo. Di avere la libertà di fare una radio per persone mature, a mezzanotte uno pensa che le fasce protette siano giustamente protette dall'amorevole cura dei genitori che li metta a letto e finalmente si azzittano, perché se mi devo porre il problema anche alle 11:30. No, lo so, però è una serata un po' particolare, insomma. Va bene, la serata particolare, per lei l'ho detto, la giornata particolare sarà domani e quindi la saluto, la ringrazio. Un abbraccio. Va bene, sì, un abbraccio anche a lei, mandiamo il traffico, ci sentiamo tra un istante. Che strada fa? Ancora disagi in prossimità di un cantiere sulla 4 Milano-Brescia da Ospitaletto a Brescia Ovest, ma poi attenzione perché la vicina 21 Torino-Piacenza-Brescia è chiusa tra Manerbio e Brescia Centro in entrambe le direzioni, chiusura notturna e il tratto verrà riaperto domani intorno alle 6. E domani per lavori nella stazione di Tarcento, questo traffico ferroviario, dalle 7:35 alle 16:10, la circolazione sulla linea Tarvisio-Udine sarà sospesa tra le stazioni di Udine e Tarvisio. Trenitalia garantirà i collegamenti con autobus sostitutivi che arriveranno e partiranno dai piazzali antistanti le stazioni. Regolare infine il collegamento notturno tra Porto Empedocle e Lampedusa, previsto tra pochi minuti a mezzanotte. L'ultima edizione, domattina ci sentiamo alle 6:15 circa. Buonanotte. Nessun dorma. La notte della passione. Questa è la parte finale della notte della passione. Sto attendendo se ancora qualcuna delle altane sparpagliate per l'Italia e per il mondo danno segni di vita, ma è anche probabile che se ne stiano lì a preferendo di ascoltarci piuttosto dare un contributo. quello che cercherò di fare adesso nell'ultima tranche di questa trasmissione è scendere, senza preoccuparmi poi tanto di quelle che sono le scalette, i contributi previsti, fra le persone che sono arrivate qui facendo in fondo una scelta di vita abbastanza importante. Cioè, la Capalucia stravaccata che sta dormendo, una cosa terrificante, ma non venite qui per dormire. Fra l'altro ti si vedono quasi... Eh sì, come no? Cos'è questo straccio? Date il telefono alla Capalucia, scusatemi, perché stavo... Cos'è questa tenda che ti sei portata dietro? Ecco, ecco, tu mi spieghi come fai a gestire un'azienda ed essere credibile e non avere il coraggio di dire due parole al microfono. Scusa, si tratto male, ma me ne dà diritto il fatto che tu porti addosso il mio nome scritto sulla pancia. Dipende dall'argomento. L'argomento lo faccio io però in questo momento. Dimmi un argomento che ti scioglierebbe la lingua. No. Vabbè, Cavaluccia non vuole parlare, benissimo, mi fa molto piacere. Vedo che c'è una grossa difficoltà di esprimersi da parte delle persone che stanno qui. Perché? È molto facile spiegarvi. Perché normalmente io che... ho avuto una lieve esperienza anche di programmi televisivi, il pubblico che normalmente compone l'aspetto umano dà la parvenza di una presenza umana in un mezzo di comunicazione di massa, in realtà è una scenografia fatta di carne quando poi non esistono innesti artificiali. Quello che si richiede invece al pubblico in una trasmissione radiofonica è di uscire dalla condanna ad essere impietrito in una figura, in un figurante, in una sagoma, in una silhouette, ma dare qualcosa di se stesso. Ma voi dovreste dare atto comunque che chi sta da quest'altra parte si mette fortemente in gioco, perché a me nessuno mi costringeva, nessuno mi aveva prescritto oggi di fare questo immenso gioco di chiamare delle persone di muoversi e di trascinarle in questo posto. Se voi volete o pretendete o vi fa piacere, visto che questa è la vostra radio, la radio a cui fate riferimento, la radio a cui avete dimostrato comunque avere un contatto che è ben differente da quello che si ha normalmente una radio. La radio si ascolta, tutto al più si telefona, tutto al più si chiede una canzone o tutto al più si pretende un piccolo spazio per rappresentare se stessi. Oggi vi abbiamo costretto in maniera piacevole, passionale, amorosa a muovervi dalle vostre abitudini, a muovervi da casa vostra. Vi abbiamo portato qua, non è che vi abbiamo dato niente in cambio, una maglietta da pochi euro che avrete i cassetti pieni e lo usate come pigiama o lo usate l'estate per scrollarvi di dosso i segni delle passioni clandestine, quindi ne avrete cassetti pieni di magliette. Non mi dite che il motivo per venire qua è quello di avere una maglietta che comunque oggi vi sarebbe totalmente superflua. Quindi c'è da essere un motivo che vorrei ascoltare da voi in questi ultimi momenti, visto che io ci sto, visto che sto qui a girare tra voi, visto che siamo ascoltati probabilmente da un numero di persone che è di gran lunga superiore a quelli che stanno qui, i motivi che vi hanno portato qui. Cosa siete venuti a fare? Perché siete venuti qua oggi? Per avere soltanto la maglietta, per vedermi in faccia, non credo che sia un bello spettacolo. Qual è il motivo che vi ha portato qua? Passo con tutti e metto il microfono davanti a tutti. Se poi starete tutti zitti, benissimo, fate la figura di 200 salami che stanno zitti. Comincio da questa signora. Ma forse quello che hai detto tu, cioè la voglia di mettermi in gioco. Dopo anni in cui ti ho ascoltato da solo nella mia macchinina, ho detto no, adesso vado. Ecco, allora si metta in gioco. Dica la cosa che non avrebbe mai detto normalmente nella vita. Abbia coraggio, dai che le viene fuori, semplicissimo. Mai detto nella vita? Sì. Io ho detto, di solito dico tutto, in questo momento non mi viene in mente. Una cosa. Benissimo, ma in questo momento lei è completamente turbata dall'ambiente e non riesce a essere appassionata. Vediamo se lei da questo testosterone che le scopre le tempie riesce a dire qualcosa di più. Sono qui per la passione e per la curiosità. Curiosità di condividere un'esperienza forte. Stata forte l'esperienza? Forte e divertente. Benissimo, andiamo avanti. Io sto a passo per tutti, ce n'è per tutti finché dura il tempo. Anch'io ho sempre curiosità di vedere come si fa la trasmissione dal vivo. Quindi è il meccanismo che sta dietro la radio. Anche, è scoprire la macchina del mago di Oz. Sì. Vedere questo mino che sta dietro la radio, che sembra chissà che, in realtà è un ometto. Questo? Sì. Va bene, lei è d'accordo? Io seguo la sua passione, la passione del mio ragazzo. Cioè, dove va il suo ragazzo, va lei? Mi ha convinto, io ero un po' estranea a questa cosa e mi sono fatta trascinare per curiosità. E questo durerà per quanto tempo? Non lo so, vedrai. Va bene, auguri, in bocca al lupo. Avanti, lei con questa barba mefistofelica. Lei solo? Sì, sono solo. E sperava stasera di alzare qualcosa, no? No, ho una moglie e un figlio a casa, però... Va bene, li saluti, va. Lasciate, prego. ho sposato dall'inizio questo esperimento e sono curioso di capire dove va a finire. Ecco, secondo lei dove sta andando a finire? Ma io stasera mi aspettavo una maggior partecipazione da parte dei mille, chiamiamoli così, o comunque credo che questo esperimento debba portare a qualcosa di maggior partecipazione. Dunque i mille vanno scoperti, i mille è molto facile, chi si nasconde dietro strumenti informatici di relazione, essere tutto il contrario di tutto, essere guerrieri impavidi come questi signori in Second Life, essere principesse meravigliose come quelle signore che avete visto danzare prima in quel luogo virtuale. Poi naturalmente quando bisogna mettersi in gioco per quello che è, naturalmente vengono fuori le difficoltà. Oggi viviamo in un mondo in cui è molto facile giocare su ciò che viene rappresentato, che molte volte è antitetico rispetto a quello che si è. Noi siamo esseri umani normali, in carne ed ossa, ripeto, abbastanza lontani, salvo alcuni casi eccezionali, vedo delle meravigliose creature intorno a me, di genere maschile e femminile, che non rispondono ai canoni esteriori del successo, però ci sentiamo persone di successo, anche per il fatto che facciamo qualcosa di diverso rispetto a quello che fanno gli altri. Lei non mi guardi male, signora. Ascoltando. Eh beh, dica la sua, perché sentire le mie parole. Ho accompagnato mio marito. Ma no, ma è tristissimo. Ero curiosa anch'io. Vabbè. No, ero curiosa, perché ne sento sempre parlare. Il fatto che entrambi avete la maglietta e la passione cambierà qualcosa, almeno per oggi, nel vostro rapporto? Ma non credo. Non sente nulla di diverso addosso? Non sente la carezza dalla rossa maglietta alla passione? No, per il momento no. Allora mi hanno preso in giro tutti quelli che hanno detto c'ho la maglietta alla passione, non sto nella pelle. Uno dice alla capaluscia che sta lì stravaccata addosso alla sua schiava. Avanti lei, l'uomo barbuto, vedo che... No, io sono venuto qua per vedere cosa succedeva, mettendo insieme tanta gente, qua dal vivo, sparse nelle altane, sparse su Second Life. Soprattutto non si vinceva niente, perché voi nemmeno sapevate la maglietta. No, no, no, ma è proprio vedere l'esperimento e vedere se succedeva qualcosa. Vabbè, qualcosa è successo, signora. Dato è successo che lei sono riuscito a farla spogliare quasi in pubblico per mettersi la maglietta alla passione, secondo me è stato un grande successo. Io non mi sono spogliata in pubblico, poi alla fine sono andata in bagno a farlo. Ah, sì, chi era che si è spogliato? Sì, sì. Io ho visto a un certo punto. Appena sono entrate le persone. Ecco, allora lei è andata in bagno, però adesso che sente la maglietta addosso, sente? Sono molto più felice. Sì. Sì, soprattutto poi faccio parte di quelli che indicizzano la puntata. Dobbiamo anche indicizzare questo. Dunque, sta succedendo qualcosa di veramente... Scusate, faccio anche pubblicità. Per favore, aiutateci. Bene. Ci sono delle persone che stanno facendo uno sforzo del tutto gratuito, nessuno li paga, nessuno gli dirà grazie se non io. Ah, lui è lei il grande indicizzatore? Uno degli indicizzatori, anche lui. Ah, sono gli indicizzatori. Allora, cos'è? Devo spiegare a tutti. Ci sono delle persone che stanno prendendosi a carico un lavoro infame che non farebbe nessuno. Che io in 20 anni che faccio radio non ho mai trovato nessuno che facesse per me, ma nemmeno ho mai pensato di farlo. Trovato noi? Sì, scusi. Utilizzo. Non è nessuno. No, questo è un noi grande regalo. Qualcuno. No, ma io adesso vi vedo in carne ed ossa, sono veramente perplesso. Queste persone in questo senza momento parole Nicoletti stanno trascrivendo praticamente tutte le puntate di Melog, ma soprattutto facendo un indice ragionato, analitico e con un database in cui è facilissimo poi ritrovare tutti i personaggi, gli argomenti. Alla fine del loro lavoro avrò una meravigliosa rappresentazione delle cose che dico per così, per pura follia o per pura intuizione. Ci possiamo fermare un attimo con lei? No, perché ho l'altana di Pechino, che forse è l'altana più lontana, ci sta ascoltando, dove c'è una nostra ascoltatrice. Chi parla da Pechino? Buongiorno, buonasera, quello che è, sono Anna. Sei Anna e stai a Pechino? Sì, sono Anna e sto a Pechino e sono affannata. Sì, ti abbiamo tirato giù dal letto, immagino. Che ore sono a Pechino in questo momento? Sono le... 6:10, vabbè, questa è l'ora in cui noi stiamo già in redazione a fare il programma. E tu ascolti Radio 24? Sì, mi capita ogni tanto di ascoltarla anche da Pechino. È stato traumatico questo risveglio? Ti stanno ascoltando molti italiani in questo momento, ci fa piacere sentire che la passione arriva da Pechino. Pensa, questa è una trasmissione che in realtà è una notte della passione, ma sono 3 notti, perché era ieri in Texas, è oggi qui da noi e è domani a Pechino, quindi siamo sparpagliati in 3 giorni, è una cosa che è molto singolare. E tu sei, diciamo, già il domani per noi rappresenti, in tutti i sensi, stando in Cina. Senti, ma tu rimarrai sempre a Pechino o forse avrai modo anche di tornare dalle nostre parti? No, esattamente tra 36 giorni torno in Italia. Va bene, quindi ti prepariamo, non vogliamo insistere di più perché sento che in questo momento sei abbastanza... Sei qualcosa di passionale, come vivi la passione lì a Pechino, in questo momento? Sei sola? Al momento studio cinese. Quindi, al momento? Non ti ho studio sentito. Studio cinese. Ah, sono 10 mesi che stai lì sola. Beh, Ah, studi cinese, scusa. Beh, ognuno si appassiona per le cose che, per cui preferisce appassionarsi. E studiare cinese ti soddisfa, sì? Sì, mi soddisfa molto. Va bene, lo sento dalla tua voce, che sei perfettamente appagata. Ti saluto, ti ringrazio, è stato veramente un grande piacere sentirti. Salutami, ciao. Grazie. Vai, signore, perché sei venuto tardi, questo giovane, tu sei un giovane, sì. Rockabilly con il ciuffo in testa e il giubbotto di pelle, c'hai anche il braccialetto di cuoio, quindi allora. Tu sei il cosiddetto pubblico giovane. Sì, insieme a loro. C'è anche loro. Ah, voi siete i giovani, complimenti. Vi davo 50 anni a testa. Vabbè, no, sentiamo finalmente i giovani, dai. Stasera io perlomeno sono qua perché è passione per imparare a fare la radio Union Air. Ah, già, siete i mistici studenti di Union Air. Dunque, devo dire che mi sono scordato di dirlo e ne faccio bene. In realtà noi siamo qui per celebrare uno dei momenti più importanti di questa radio, che è il progetto Union Air. Di velocemente di cosa si tratta. Voi siete degli studenti universitari e state facendo delle mistiche e meravigliose radio, web radio web d'Ateneo. Sì. Ecco, rispetto a quell'idea che ti eri fatta sui libri di scuola, sulla tua esperienza della radio, rispetto a quello che hai visto stasera, ecco, dimmi un po' se hai imparato qualcosa o hai capito che in fondo fare la radio è abbastanza rischioso. È rischiosamente interessante. Eh? È appassionante, sembra banale, però poi vabbè, io adoro le persone un po', passami il termine, ciniche come te. Io cinico? Nel modo di fare. Deve essere tanto bonino, dai, passa il microfono alla tua maestra. Ah no, collega, no, scusa. Non sono la maestra, io. Chi sei? Perché tu hai un piercing labiale che dimostra la tua giovane età. Esatto. Cioè, se no come si faceva a vedere altrimenti? Dimmi. No, noi siamo dell'Università di Bergamo. Di Bergamo, quindi vicini siete. Sì, siamo vicini ed è comunque un mettersi in gioco perché siamo una realtà abbastanza chiusa rispetto a quello che può essere Milano e mettersi in gioco, mettersi in mostra. Guarda, questo è il complesso di inferiorità che ha ogni provincia, di dire noi siamo chiusi rispetto alle metropoli. Io trovo che le intelligenze più vive del nostro paese sono persone che hanno coltivato quel sano spirito di insoddisfazione proprio nella provincia italiana e poi sono andati laddove erano tutti uguali e loro hanno impugnato la loro diversità. Vabbè, giovane, ti è finito, c'è un'altra giovane, tu sei una giovane. Tieni. Sono una giovane. Sì. L'anno scorso siamo venuti per Union Air e abbiamo ascoltato. E dopo un anno? Ti abbiamo ascoltato la mattina alle 8:30, che per noi giovani è difficile alzarsi alle 8:30, soprattutto quando siamo universitari, perché le lezioni le frequentiamo se cominciano intorno alle 11, non prima, che le altre non sono prese in considerazione. E stamattina è dalle 6 che siamo in giro, Nicolè, per ascoltare. Vabbè, guarda, adesso non è per voglio dirti, aprire qui un conflitto generazionale a un minuto alla fine, io sono 20 anni, mi alzo a quell'ora anche un po' prima. Ecco, prego. Io, ho un minuto alla fine, cerca di spiegare. Ecco, no, molto, molto velocemente. Io diciamo sono qua per la passione, per il programma che fai, questo lo devo dire. Scusa, sì, penso vabbè. Che siamo tutti qua per aver fatto passione anche mia moglie al tuo programma, questo probabilmente bisogna dirlo. Ma questo qua, posso dire sì, una sola cosa? Certo. Venendo qua ho pensato che se avessi sentito la musichetta di Melog, la sigla, mi avrebbe forse colpito molto, ma non c'è stato, mi è dispiaciuto un po'. Ma no, non c'entra niente, Melog no. È incidentalmente il programma che faccio io. È vero, però dal momento che c'è questa forte associazione, penso non solo in me, ma forse un po' in tutti, insomma, allora così mi ero fatto questa idea. Voi volete cercare di sparpagliare su tutto palinsesto di Radio 24... Quella che è la passione per la trasmissione. No, non puoi dire niente, perché siamo l'ultimissima chiusi. Cosa, dai. Penso che sia un po' imbarazzante, perché sentiti alla radio come parli. Insomma. E vederti in faccia è no, una grande delusione. No, allora... No. Dai, non no, nel senso che è molto imbarazzante... Chiacchieri perché... troppo, sei inadatto alla radio, scusa, ti seguo. Arrivederci, io devo ringraziare innanzitutto il meraviglioso staff tecnico di Radio 24, ci ha dato questa possibilità di sperimentare la passione, anche se mediata da una notte, da un sabato notte, che spero che... sia proficuo e il bello debba veramente venire per le persone che stiamo qua. Ringrazio quelli che hanno fatto la fatica di venire e ripeto, non credo che l'abbiate fatto soltanto per una maglietta di cotone. A domani. La notte della passione. Un cordiale saluto da Armando Torno. Musica Maestro di questa settimana si occuperà di Nikola Ivanov, un tenore russo che diventò più italiano degli italiani, fu amico di Donizetti, di Rossini, di Verdi, di molti altri. È uscito un libro di un tenore russo di questi giorni, Plyushnikov, ne parleremo con i curatori del libro, ne parleremo con un po' di persone, soprattutto ascolteremo musiche russe inedite che Plyushnikov ha cantato in onore a Ivanov. A risentirci dunque domani sera alle 20:30. Un cordiale saluto da Armando Torno. È mezzanotte. GR 24, il sole 24 ore. Tariffe ancora rincari, il gas aumenterà del 3,9%, l'elettricità del 2,5%. Per Tremonti il tesoretto non c'è, il ministro chiede sacrifici a banche e petrolieri, pensioni, Sacconi rassicura, non le tocco. Sicurezza, la clandestinità potrebbe diventare reato.